Grazie agli Yes con Long Distance Runaround. Ci avviciniamo al termine in attesa dell'arrivo di Claudia, che sicuramente ha perso il cammello, però tra poco arriverà, sarà con voi dalle ore 12 alle 14. Questi sono Steppenwolf con The Pusher. Ah. Steppenwolf. Allora, il cammello è arrivato, ci ha portato Claudia, tra poco un saluto anche a Simone. L'imbianchino Paolo mi dice: sai dirmi di chi è la canzone che canta Biancaneve in Shrek 3? Francamente ho visto Shrek 1, Shrek 2, il 3 non l'ho visto, mi sto dando ad altri film ultimamente, quindi non posso aiutarti. Chiedetelo a Claudia, lei ogni tanto tra un libro di Fantozzi e l'altro può darsi che l'abbia visto. Allora, altro brano? No, sento un urlo, no, non l'ha visto neanche Claudia, quindi caro amico Paolo, ti è andata male, prova a chiederlo ad altri, eh. Abbiamo trovato, grazie a una marea di amici che stanno inviando gli sms, il pezzo è Immigrant Song, non dei Pink Floyd. Chi è che ha scritto dei Pink Floyd? Gli taglio la testa. Dani, come si fa a dire che Immigrant Song è dei Pink Floyd? Led Zeppelin, erano dei Led Zeppelin, ok? Quindi, caro Paolo, ringrazio a tutti gli ascoltatori, almeno una trentina hanno scritto appunto Immigrant Song dei Led Zeppelin. Tra poco anche trovo la scaletta di ieri sera di Arden Devi e vi rispondo e poi vi saluterò. E siamo arrivati al termine anche per quest'oggi, scatta il mezzogiorno del cuoco, io vi ringrazio per avermi seguito sino a questo punto, vi rimando allo spazio di questa sera di Arden Devi dalle 20 alle 21, mi chiedono se domani sera, no, Arden Devi di domani, quello live è registrato, è quello di settimana scorsa, anche perché poi di notte partiremo a mezzanotte con la Arden Devi Nightmare. Bene, detto questo, stop, vi lascio a Claudia, è già pronta, in arrivo. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno inviato gli sms, che hanno scritto la mail, che sono in questo momento su rockfamily.it. Da Marco Gravelli è veramente tutto. Un bacione a tutti, alla prossima. Ciao.